scelta chi vive smate, realizzato nel proprio io. I miei amici della adolescenza mi gettavano per fare festa, io un ricordo ricorrente che è ancora oggi nella mia testa, ma per me non era festa. Io invece di uscire preferito contare i passi della solitudine come un reduce da guerra, ma prima di ritornare nella sua terra. Dettagli di un materialismo esponenziale, nell'archetipo di uno spiritualismo da scelta metropolitano. Media dolente e sensata, la polemica fotogenica. Fin dalla nascita l'assoluto mi ha imposto una malinconia radicale, tutto esplosa come un vulcano. Metafisico, sillogismo di una logica teleologia che è tutto un sapere senza filologia. Di una sintesi esistenziale riluttante a preambolo dettagli di un materialismo esponenziale, è l'archetipo di uno spiritualismo da scelta metropolitano. Media insensata, la polemica fotogenica. Conosco l'assoluto come il mare conosce i suoi pesci. Conosco l'assoluto come il mare conosce i suoi pesci.